Tarek Yuricic, in arte Rancore, inizia a scrivere e a cantare all'età di 14 anni. A 16 ha già il primo album pubblicato. Sabato sarà con noi, sarà a Bologna, non con noi. Noi saremo sotto palco a cantare le sue canzoni perché ci sarà un grandissimo concerto che è stato addirittura spostato perché al Locomotive non ci stavamo tutti. Sei qua con noi, sei il benvenuto e vorremmo farti qualche domanda. Grazie. Ciao, ciao. Come va? Tutto bene, tu come stai? Tutto bene, come senti c'ho la voce un po' rotta dal troppo cantare. Posala un pochino che sabato non vediamo l'ora di sentirti, mi raccomando. No, ma per sabato siamo pronti sicuramente. Allora, io ti farei qualche domanda, intanto ti posso chiamare col tuo nome d'arte o preferisci il nome di battesimo? Ma come preferisci te, Rancore, dai, c'ha sempre la sua giusta cattiveria, quindi se vuoi mi può anche chiamare Rancore, dai, va okay, bene. Ok, allora, io ti chiamo Rancore, però in cambio mi spieghi perché hai scelto questo nome, se ti va. Diciamo che il nome viene ovviamente da prima che facessi il mio primo disco, che l'ho fatto a 15 anni, quindi ero in piena adolescenza, e sicuramente il significato che davo al tempo a questo nome è diverso da quello che gli do oggi. Con il tempo, sicuramente se all'inizio era proprio cercare di trovare una parola che, insomma, che esprimeva la rabbia che giustamente uno provava in fase più adolescenziale, più piccola, insomma, quando ancora doveva approcciarsi a quello che era il rap. Poi c'è anche un po', diciamo, questo scegliersi un nome il più cattivo possibile in modo tale da riuscire a inibire gli altri rapper anche solo col nome, no? Che è un po' un eco di quello che sono appunto tutte le gare di freestyle che ho fatto, tutto quello che è il primo periodo del rap in cui la sfida, la battaglia era un po' al centro. Okay. Poi andando avanti il nome ha assunto, come giusto che sia, altri significati, non perché la rabbia sia scesa, quella è rimasta più o meno sempre un po' una spinta verso per fare le cose. Diciamo che è cambiato il motivo per il quale mi chiamo e mi continuo a chiamare così. E oggi lo vedo un po' più come un modo per esorcizzare un sentimento non positivo, un modo per uccidere tutto quel lato non piacevole che uno ha, che però spesso nasce da un volersi male da soli, ecco, da non saper perdonarsi da soli. Quindi in un certo senso, se il contrario del rancore è il perdono, è quasi per perdonarmi che continuo a chiamarmi così, per esorcizzare sempre di più questa parola. Quindi è un po' un nome di battaglia, un po' un nome terapeutico quasi. Esatto, okay. Proprio così. Comunque dicevamo, hai iniziato a suonare veramente da giovane, a 14 anni, e adesso sei un po' più grande. Questi anni sia il rap che l'hip hop sono due generi musicali che sono cambiati tantissimo. Tu musicalmente sei stato sempre molto indipendente, hai sempre avuto un'identità molto forte, hai fatto sempre tanti concerti. Ci ho provato. Ci sei riuscito, possiamo dire. Concerti pieni di gente, locali occupati, grandi eventi. Questa tua scelta di rimanere un po' al di fuori forse di quello che poteva essere il mainstream della musica rap hip hop è stata una tua scelta? L'hai cercata fortemente o è nata così? È successo? È stato il caso. Io non ho mai pensato che ci fosse una divisione dentro la musica, né nei generi musicali né nei vari strati dei sottobosco o appunto di prateria, in cui appunto fare una differenziazione tra ciò che è sotto e ciò che è sopra, ciò che prende luce e ciò che invece è al buio. Per me è tutto, la musica è una. Quindi se avessi avuto prima la possibilità di portare questa musica a più ascoltatori, l'avrei fatto sicuramente prima. Non che oggi abbia fatto chissà quali operazioni per portarla a più persone, però sicuramente ci sono state delle cose avvenute nell'ultimo anno che hanno, diciamo, dato a queste parole una vetrina più grossa. Una su tutte è sicuramente la collaborazione che hai avuto con Silvestri, salire sul palco di Sanremo. Sì, esatto, salire sul palco di Sanremo, piuttosto che tutto quello che è nato dopo l'uscita di Musica per Bambini fino ad arrivare a Sanremo, è sicuramente un'esposizione molto maggiore di quella che c'era nei dischi precedenti. Però tutto questo anche è nato casualmente, cioè non c'è alcun tipo di programmazione in questo, è tutto un caso, nel senso, io prima di andare a Sanremo l'ho saputo veramente un mese prima, non c'era alcun tipo di programmazione o tentativo di portare consapevolmente queste cose a più persone. Queste cose sono arrivate a più persone semplicemente perché era il momento giusto, forse. Era anche una cosa perché importante, probabilmente. Almeno a me la vostra canzone è piaciuta tantissimo ed è stato un argomento, secondo me, un po' al di fuori di quelli che normalmente vengono trattati dalle canzoni di Sanremo, sì. No? Si parla d'amore, di solito si parla di altre cose. Argento Vivo è una canzone molto forte, e anche il fatto che l'abbiate cantata tu e Daniele Silvestri, avete, si può dire in questo modo, delle audience diverse, no? Avete generazioni, certo, diverse che vi ascoltano. Sicuramente. È stato molto bello. Com'è stata questa collaborazione? Come l'hai vissuta? L'ho vissuta in maniera, come dire, improvvisa, un po' magica. Erano anni che avrei voluto chiamare Daniele per collaborare, eccetera, però non avevo ancora trovato l'occasione, o comunque il modo, la giusta occasione, appunto, per poterlo inserire dentro un progetto. Quando poi a un certo punto mi è arrivata la chiamata che mi diceva, appunto, che ci dovevamo vedere per lavorare a questo pezzo, non ci credevo lì per lì, dicevo, ma davvero sta succedendo questa cosa? E quando ho sentito che il pezzo rientrava nelle argomentazioni di cui io parlavo già nel mio disco Musica per Bambini, uscito pochi mesi prima, ho detto, non è possibile, cioè, sta succedendo qualcosa. Ho iniziato subito a scrivere, e da lì mi è arrivata una chiamata, un'altra chiamata da Daniele, che mi diceva, guarda, se a te va potremmo portare questo pezzo a Sanremo, il che era comunque una scelta importante, tra virgolette, e anche una sfida importante, cioè riuscire a portare quella canzone in quel modo, con questa collaborazione comunque particolare, su un palco così importante, è stato la nostra piccola rivoluzione, in un certo senso. Sono molto felice che anche in tutto molto velocemente, tutto molto naturalmente, ha portato a far arrivare questo messaggio in ambiti molto più grandi. Dai. Ti faccio l'ultima domanda che riguarda il tuo album. È arrivato il momento di, sì, parlarne, insomma. L'album è uscito nel 2018, si chiama Musica per Bambini, e sì, possiamo aggiungere sottotesto, è per bambini un po' incazzati, se si può dire. Sì, un bel po' incazzati. Un bel po' incazzati. Sì. È arrivato, e non c'è neanche tutta sta musica per bambini dentro voi, quindi è un po' un ossimoro, diciamo, bambini, il titolo. Per i bambini grandi, che per i bambini che abbiamo dentro da grandi, dici. Forse. Esatto, esatto, esatto. È arrivato questo album anche dopo un momento un po' di silenzio, cioè un momento comunque, tra l'altro citando anche il tuo ultimo album, dopo una lavorazione abbastanza lunga. Cosa c'è dentro quest'album? Perché ci hai lavorato così tanto tempo? La lavorazione, sì, è stata lunga, ma non così lunga come uno può immaginare. Più che altro è stata molto sofferta, nel senso che ho scritto questo disco al buio, tra virgolette, al buio nel senso che mi hanno proprio staccato la luce di casa. Sì, perché non ci avevano più pagato le bollette. Quindi, ma al di là ora di questo, ma che è anche una stupidaggine, però veramente l'ho scritto in una situazione di tensione emotiva, economica, sociale abbastanza elevata, e in una situazione anche, tra virgolette, musicale non semplice, in cui, tra virgolette, ho dovuto ricostruire tutta una serie di cose da zero. E questo disco non è solo un disco che dovevo far uscire, ma era proprio una mia personalità che doveva uscire, in poche parole. Cioè non è uscito il disco, sono proprio uscito io da una galera mentale, tra virgolette, o comunque da tutto un limite mio mentale che volevo io stesso superare. Quindi questo è un disco scritto per ritrovarmi in un labirinto nel quale, tra virgolette, mi ero perso. Quindi non avevo neanche la pretesa che questo disco potesse essere capito dal prossimo, perché non era scritto per il prossimo. Nel momento in cui è uscito sono rimasto molto stupito del fatto che le persone l'hanno capito, che non era scontato, nel senso che non era scontato, anche perché è un disco estremamente intimo, dove mi metto a nudo in un certo senso, quindi di conseguenza sono estremamente attaccabile. Dopo questo disco, sì, mi sono esposto, però l'ho fatto in maniera esagerata, mostrando anche le mie debolezze, e quindi le frecce possono colpirmi sicuramente più facilmente, perché sanno dove colpirmi. Però l'ho detto proprio perché era il modo per ritrovarmi, accettare, ammettere i propri limiti, i propri sentimenti, senza preoccuparsi di quello che pensano gli altri o di spiegarli in un modo troppo legato a questo mondo e non legato magari al mondo mio che ho dentro. Insomma, in poche parole, è come se parlasse un bambino, senza freni, senza preoccupazioni, che non sa niente del mondo e neanche lo vuole sapere. Per questo è Musica per Bambini, che è un titolo che ha molti significati, anche provocatori, non lo metto in dubbio, anche provocatori nei confronti di una musica italiana che può fare solo un determinato tipo di pezzi e usare solo un determinato tipo di linguaggio, no? Quindi sicuramente c'è una provocazione in questo titolo, però c'è anche un aspetto reale di quella disperazione fanciullesca nella quale ho scritto musica per bambini, appunto. Già mi piaceva l'album e con questo racconto assume un significato ancora più bello, quindi ti ringrazio molto per averlo condiviso con noi. No, grazie a voi. E anche il concerto è simile, è sempre un viaggio intimo dentro, diciamo, una psicologia un po' strana e ha tanti aspetti teatrali, costumi, luci e follia. Allora, l'appuntamento ricordiamo che è stato spostato all'Estragon, è questo sabato, sì. È all'Estragon perché a Locomotive appunto non ci stavamo tutti. Io ti chiedo, per prepararci a questa serata, se vuoi scegliere tu la canzone che chiude l'intervista. Ma io direi di partire con, come preparazione per entrare in un giusto mood, con Sangue di Drago. Perfetto, allora ascoltiamo Sangue di Drago e io ti ringrazio moltissimo. Grazie infinite. Ciao. Grazie mille, a sabato, ciao.